in primo piano. Buongiorno, vi auguro una buona mattina, Dennis Redmond. E oggi abbiamo visto che in comparazione con gli altri giorni i giornali si sono messi d'accordo su il topic numero uno, l'argomento numero uno. Si tratta, come avete probabilmente sentito, dell'Afghanistan, il fatto che è morto un parà e altri tre feriti. Questo caporalmaggiore della Folgore, Alessandro Di Lisio, 25 anni, è stato ucciso di una bomba che ha colpito il blindato su cui viaggiava. È abbastanza interessante vedere che i giornali italiani e pure i giornali stranieri focalizzano su questa missione in Afghanistan della NATO che all'approssimarsi delle elezioni afghane danno da ripensare su le cause, le conseguenze e che cosa deve fare l'Alleanza. La Repubblica in prima pagina si chiede su le ragioni e il prezzo di questa guerra. Guido Rampoldi dice: da ieri sappiamo definitivamente che il contingente italiano in Afghanistan opera dentro una guerra guerreggiata e nell'unico modo in cui è saggio e dignitoso stare oggi dentro quel conflitto, combattendo. Portare cibo agli affamati, costruire scuola, rimettere in sesto ospedale, curare gli ammalati. Nella missione c'è anche questo. Ma non solo la Repubblica che titola bomba sui italiani, la Stampa ha un titolo che dice l'inferno nell'Afghanistan, ha un commento di Lucia Annunziata che ricorda che esiste a Washington un task force che è liderata dal famoso diplomatico americano Richard Holbrooke, inviato speciale dell'amministrazione americana in quel paese. Questa task force è composta da 27 membri di altre tante nazioni, inclusa Cina e Egitto, anche, ma non la Russia, comunque l'Italia ha anche il suo delegato. Questa task force durante i prossimi giorni dovrà studiare esattamente l'atteggiamento di avere, perché la missione italiana è da tempo mutata sia nei scopi, dice Lucia Annunziata, sia nella natura. Questo mutamento, dice Lucia Annunziata, è avvenuto nei scorsi anni in maniera lenta e invisibile, si è accelerato proprio da quando l'amministrazione Obama ha elevato l'Afghanistan al suo principale conflitto. Che cosa è questo principale conflitto? Se volete avere un'idea, potete guardare sulla pagina 4 di Repubblica e vedere che il contingente italiano sono 2.350 uomini, che 500 uomini alla vigilia delle elezioni afghane arriveranno pure dall'Italia, e vedrete un grafico istruttivo. Invece, se volete avere delle risposte a perché siamo l'Italia e il mio paese, che è gli Stati Uniti, stiamo in Afghanistan, potete guardare sul Sole 24 Ore, dove voi vedrete una rubrica molto sfiziosa di domande e risposta che dice che risponde alle domande quando e perché ha preso via il conflitto, fino a quando è entrata in scena la NATO, quanti sono i militari occidentali, eccetera. È più dura, si fa certamente, la guerra italiana. Più dura è d'accordo il Corriere della Sera, che dice che in un commento da Franco Verturini, la missione è giusta, ma è in pericolo. Eppure il Mattino di Napoli la chiama la missione Neodem, facendo allusione al fatto che è la guerra dei democratici di Obama. Forse la Ci sono due angoli che sono più interessanti in tutta questa faccenda della guerra dell'Afghanistan e io direi è uno il riformista in prima pagina, l'analista geopolitico Alessandro Politi, spiega perché è stato ucciso il Palà in Afghanistan. E dice sotto il titolo Ha ceduto il blindato Lince. Il blindato Lince è ribattezzato dai nostri soldati Santo Lince per la sua capacità di proteggere sinora soldati da morte e ferite gravi. Decisamente meglio del più famoso gippone americano Hammer, non ha retto all'ennesimo ordigno piazzato dagli avversari. Chiunque siano, talebane, briganti o signore della guerra, hanno avuto tutto il tempo per studiare le tattiche di protezione dei nostri soldati, la tenuta della corazza e le ragioni dei precedenti fallimenti. A 50 chilometri di Farah è morto ieri il caporal maggiore Alessandro Delisio, soldato della Folgore, aveva 25 anni ed era in missione in Afghanistan da 4 mesi. L'agguato, dice sempre Alessandro Politi, è stato preparato con cura, come imponeva la guerra di guerriglia. La carica esplosiva adeguatamente rinforzata ed è stata attaccata proprio la pattuglia di testa, quella di bonifica della strada e quindi più esposte alle insidie avversarie. Un altro commento che vi segnalo, ma non posso andare in dettaglio, è di una giornalista del Manifesto, la famosa Giuliana Sgrena, che sul che come sapete ha avuto i suoi episodi di prigionia pure in Afghanistan, e sotto il titolo Lavoro sporco, scrive che la vigilia elettorale rafforza l'impegno dei taliban contro le forze straniere e non basteranno certo i nuovi invii di truppe dagli Stati Uniti, dall'Italia e dalla Gran Bretagna per evitare lo stilicidio quotidiano. Perciò molto pessimismo, ma anche pessimismo sul lato economico perché come sapete oggi si pubblica il nuovo DPEF e il PIL italiano crolla secondo le stimative del documento che il governo ha illustrato alle parti sociali e alle regioni di ieri, si prevede un calo del 5,2%. In realtà, dice il governo, e questo lo riporta la stampa e pure Repubblica in prima pagina, in realtà la crisi mostra segni di attenuazione, tanto da ipotizzare la ripresa dal 2010 con una crescita del prodotto interno lordo. E poi si parla di scudo fiscale, è negativo il giudizio del leader CGIL, Epifani, su pensioni e tasse non ci hanno detto nulla. Dobbiamo anche passare alla politica, perché? Perché sul Corriere della Sera il giornale ha interrogato l'ex presidente della Repubblica, Carlo Asello Ciampi, ne fa un'intervista in pagina 17 e spiega e analizza il presidente emerito il momento attuale del Partito Democratico. Dice Ciampi, Grillo è bravo nella satira, non lo credo utile in politica. C'è un'intervista dove il presidente rivela che ho pensato 2 anni fa sul serio che il varo di un partito della sinistra riformista fosse cosa giusta e importante, perciò interessante di vedere che forse adesso non lo pensa. Sul fronte pure politico segnalerei un'investigazione del giornale della famiglia Berlusconi che parla del piano segreto di Grillo e Di Pietro. Riporta che c'è un'idea di del partito di Antonio Di Pietro, l'Italia dei Valori, di sbranare il Partito Democratico con il comico Beppe Grillo e così passando dalle due, attaccando su due fronti. Come sapete, il PD ha rigettato la candidatura di Grillo, anche se poi è stato in questo momento contestato. Finalmente io vi manderei a guardare anche altre notizie di natura economica, come per esempio un record che è successo ieri in America con la famosa azienda finanziaria Goldman Sachs, che ha avuto dei record di utile in America dopo il momento di Wall Street. C'è stato un annuncio ieri che la Goldman Sachs ha avuto dei guadagni record grazie alla sua operazione di trading, condotte con l'assunzione di rischi maggiori rispetto ai mesi scorsi e soprattutto con software specializzata nei cambi high frequency. La banca è riuscita ad avere un utile dei 3,44 miliardi di dollari, ben maggiore delle attese degli analisti. Ci saranno molte cose da discutere perché c'è la possibilità che Goldman Sachs, di serie pubblica, ha avuto di finanziare le sue operazioni speculative grazie alle politiche di accesso al credito a buon mercato. E queste erano intese per favorire la ripresa economica e quindi dell'occupazione, ma in questo caso si sono risolte in forti guadagni finanziari. Siamo adesso agli approfondimenti della rassegna della stampa estera. Vorrei intrattenervi con gli articoli che hanno attirato la mia attenzione questa mattina. Certamente uno dei più sfiziosi è un articolo in prima pagina di Repubblica che titola Il mondo sommerso dagli SMS, dove si rivela che questi texting, la degenerazione dei teenager immersi nel texting, cioè la scrittura degli SMS, dilaga. Oggi scrivere un messaggio davanti agli altri non è più maleducazione, così negli USA arriva lo storico sorpasso. Gli SMS superano le telefonate. Questo incredibile risultato è analizzato poi da Anais Ginori all'interno di Repubblica e vediamo che i costi medi dei SMS sono 13 centesimi in Italia, il più caro in Europa. Invece in Europa il costo medio è 7,5, perciò attenzione, chi manda un SMS 79% dei utenti, poi i ragazzi mandano 5 SMS al giorno, ma pure i 65 anni non stanno indietro, che sono cresciuti del 33% dal 2003. Poi segnalerei anche per quelli che sono interessati all'America, al mio paese, un articolo, un commento interessante di Angelo Panebianco che compara la Corte Suprema, Trasparenza e le domande che stanno facendo il Senato americano al candidato, alla candidata per la Suprema Corte, Sotomayor, Sonia Sotomayor, che si volete vedere come si fa un interrogatorio, guardate queste hearings al Senato americano dove per gli ultimi 3 giorni la signora è sotto torchio. Panebianco dice che, comparando l'Italia agli Stati Uniti, dice la nostra europea e italiana in particolare è una tradizione di chiusura e cooperativa in mancanza di trasparenza, invece si potesse Pensando per esempio come vengono designati i giudici della Corte Costituzionale, siamo sicuro che il prestigio della Corte italiana verrebbe indebolito se i candidati designati dovessero affrontare pubblicamente una batteria di domande sul modello americano da parte del Senato? Questa è la domanda di Panebianco. Poi ieri abbiamo anche sottolineato che il presidente del nuovo Parlamento è un polacco. Era il posto che era favorito dagli italiani, invece dopo i risultati elettorali l'Italia non ha avuto niente. Infatti questo nuovo leader dell'Est per la prima volta alla guida dell'Europarlamento, una corrispondenza da Strasburgo del Sole 24 Ore, Adriana Ceretelli, dice che solo gli italiani hanno solo spuntato due vicepresidenza, Gianni Pittella del PD e Roberta Angelilli del PDL. Dietro il reiterato patto di stabilità parlamentare c'è però, dice la Ceretelli, la solita salsa tedesca. Se sono e resteranno tedeschi tutti gli importanti gangli decisionali del Parlamento, e se è stata decisiva per la promozione di Buzek la sponsorizzazione di Angela Merkel, non c'è dubbio che le legislative in Germania a settembre e il modello della grande coalizione hanno indicato la strada da seguire anche nella gestione del Parlamento. Interessante questa analisi. Poi vi segnalo anche un'altra intervista, se volete vedere in più profondità quello che succede in Israele, sulla stampa, pagina 7, il controverso ministro degli esteri israeliano Avigdor Lieberman. Rina Maslah da Gerusalemme intervista questo falco dell'ex URSS, come sapete forse è nato in Moldova, è emigrata in Israele nel 78, è stato molto controverso perché pure il primo ministro francese Sarkozy ha detto che non doveva stare dove sta. Cosa racconta Lieberman? Dice che il governo delle colombe che ci ha preceduto ha fatto la guerra in Libano e Gaza. I re europei non sono insoddisfatti per la nostra politica, piuttosto non riescono a capirla. E poi dà le frecciate all'Unione Europea dicendo: Solana vuol riconoscere lo Stato palestinese, tanto il suo mandato sta scadendo. Gli Stati Uniti, poi dice, insediamenti sono l'unico contrasto, siamo pronti a uno stop, ma è un'offerta a termine. Poi vi segnalerei anche uno scoop del Corriere della Sera che ha scovato e lo porta in prima pagina il patto segreto tra Marella Agnelli, Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli, e la figlia Margherita Palen in Agnelli, che parla di questo accordo che è stato partorito nel 2004 stabilendo l'eredità dell'avvocato Agnelli. Guardatelo in prima pagina del Corriere. Finalmente, visto che siamo in capitolo donne e manager, vi vorrei intrattenere con un'inchiesta che fa solo il Corriere della Sera, un focus di pari opportunità. Parla delle donne manager e delle quote rosa delle aziende. In pratica fa un'indagine il Corriere in 93 gruppi italiani e stranieri e vede che i vertici ci sono nei primi 10 gruppi in Italia. Ci sono solo due gruppi italiani, UniCredit e RCS Media Group. Gli altri sono tutti internazionali, tutti multinazionali. E c'è un'intervista alla Gabriele Parisse, amministratore delegato di Johnson & Johnson, 48 anni, che è stata distinta qualche settimana fa dal presidente Giorgio Napolitano come Cavaliere del Lavoro. 4 donne su 25 nuovi cavalieri. Questa donna dice: se sulle pari opportunità l'Europa ha ancora molto passi da fare, l'Italia come paese è particolarmente indietro. Non a caso Parisse si dice favorevole a meccanismi di quota che permettono di togliere un tappo che finisce per condizionare negativamente l'economia. Parlando di pari opportunità, vorrei anche segnalarvi a una specie di speculazione del giornale Libero che riporta a pagina 10 che in pratica il sogno o l'intenzione di Silvio Berlusconi è di mettere le sue due ministre, Carfagna e Meloni, come governatrice rispettivamente della Campania e della Lazio. Con questo Dennis Redmond vi saluta, vi augura una buona giornata e vi do appuntamento a domani mattina con la rassegna stampa.